Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Preparavano un attentato a Parigi, 4 arrestati, tra questi una sedicenne, nel materiale sequestrato, lo stesso tipo di esplosivo usato a Bruxelles. Per la produzione industriale una crescita del 6,6% nel 2016, la miglior performance dall'inizio della crisi. L'INPS intanto annuncia stop alla disoccupazione per i collaboratori. Bologna ha rioccupata la biblioteca di lettere dopo gli scontri e lo sgombero di ieri. I collettivi vogliono l'eliminazione dell'accesso col badge. Giunta di Roma alla ricerca del nuovo assessore, mentre si alza la polemica su Libero per il titolo sulla sindaca. Solidarietà a Raggi da tutti gli schieramenti. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, alle notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, effettogiorno@radio24.it. Invece se ci volete scrivere, naturalmente tra le notizie, non abbiamo messe nei titoli, ma parleremo anche del weekend sportivo che si avvicina e ovviamente del Festival di Sanremo che ha fatto segnare ottimi ascolti ieri. Iniziamo però e naturalmente dalla Francia con questo operazione che si è svolta a Montpellier contro il terrorismo. Ci colleghiamo col corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Marco Moussanet. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quali sono le notizie? Ma le notizie appunto sono in estrema sintesi quelle che hai già anticipato tu. Questa mattina tra Montpellier e i dintorni della città ci sono stati 4 arresti di persone di età compresa tra i 16 e i 33 anni, la persona di 16 anni è una ragazza, in uno degli appartamenti occupati dagli arrestati è stato trovato una specie di laboratorio, diciamo, artigianale per la produzione di esplosivi e 71 grammi di TATP, che è appunto l'esplosivo, diciamo, artigianale spesso usato dai jihadisti soprattutto per cinture esplosive. Secondo le prime indiscrezioni sull'inchiesta, gli inquirenti sono risaliti ai 4 attraverso le loro attività sui social network, in particolare della ragazza che avrebbe dovuto sposarsi con uno degli uomini, un 29enne. L'obiettivo apparentemente era che lui, subito dopo il matrimonio, avrebbe dovuto farsi esplodere con un attentato suicida, probabilmente in un sito turistico a Parigi, e lei partire in Siria. Il ministro dell'interno francese poco fa ha confermato che l'attacco dei terroristi era imminente. Io ti ringrazio, grazie a Marco Moussanet, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, per questo aggiornamento. Veniamo all'Italia e ai dati sulla produzione industriale, il servizio. La fine dell'anno è stata dolce per l'industria italiana. A dicembre l'indice è cresciuto dell'1,4% rispetto al mese precedente e del 6,6% rispetto allo stesso mese del 2015. Si tratta del quinto progresso tendenziale consecutivo. L'intero 2016 è cresciuto dell'1,6%, il che gli ha permesso di passare come il miglior anno sotto il profilo della produzione dal 2010. Dunque numeri incoraggianti e una iniezione di fiducia per quasi tutti i comparti. In testa l'energia, seguita dai beni intermedi, quelli che vengono utilizzati una volta sola per produrre altri beni, e i beni strumentali, essenziali per l'attività di impresa, incrementi che fanno supporre un ritorno agli investimenti. Tra gli specifici settori, crescite anche a doppia cifra. Nella media dell'intero anno la miglior prestazione però è quella dei mezzi di trasporto. In rosso invece il tessile. Rivendica il successo di fine anno la Coldiretti. L'alimentare ha registrato un balzo del 6% rispetto al 2015 grazie alle festività. Bene anche le esportazioni dell'agroalimentare nostrano, cresciute nelle ultime feste del 3%. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia di questa mattina: non è più possibile per i collaboratori ricevere l'indennità di disoccupazione, la cosiddetta DIS-COL, istituita nel 2015. Lo fa sapere l'INPS spiegando che la norma non è stata oggetto di proroga. Nessuna indennità sarà quindi corrisposta a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intervenuti dall'inizio del 2017. Questa misura era stata istituita in via sperimentale. Tra le figure escluse c'erano i titolari di partita IVA. Oggi Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno l'ampliamento dei poteri dei sindaci e, stando all'integrazione che è arrivata poco fa, anche il tema dell'immigrazione. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così. Parliamo allora del decreto sulla sicurezza urbana. Il provvedimento ha l'obiettivo di mettere in campo misure che consentano un maggiore controllo delle aree più degradate di città e aree metropolitane, garantendo vivibilità e sicurezza ai cittadini. Tutto ruota attorno ai nuovi poteri di ordinanza concessi ai sindaci, che potranno intervenire con misure per limitare l'accattonaggio e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, ma anche la movida molesta, lo spaccio incontrollato e la prostituzione di strada. Per gli spacciatori si prevede una sorta di DASPO urbano con il divieto di frequentare alcune zone fino a 5 anni, previsto anche un ricorso alle più moderne tecnologie di videosorveglianza e un rafforzamento dei presidi di polizia nelle periferie più a rischio. Vi è quindi un inasprimento delle pene per i cosiddetti reati predatori, furti in casa, scippi, imbrattamento. Un secondo decreto è poi sul tavolo del governo, il tema è quello dei migranti, non è detto che venga approvato per oggi, si parla di nuovi centri per rimpatriare chi non ha diritto a rimanere in Italia, dei lavori socialmente utili, gratis per i richiedenti asilo, degli incentivi per i comuni che accolgono. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, veniamo alle vicende della Giunta di Roma. Troppo rischiosa una sua sostituzione alla vigilia di scelte importanti come quella sullo stadio della Roma. Per questo, almeno per un po', dovrebbe restare al suo posto Paolo Berdini, l'assessore all'urbanistica finito sulla lista nera della sindaca Raggi dopo averla definita impreparata e circondata da una banda. La prima cittadina, che giovedì ha respinto con riserva le sue dimissioni, ha però deciso di affiancargli una squadra che controllerà il suo operato. Allo studio c'è anche un dimezzamento delle deleghe, di fatto un commissariamento. «Sono un idiota, ho combinato un casino, ma tanto mi avrebbero cacciato per lo stadio», è l'amaro sfogo di Berdini, riportato oggi da Repubblica. Ad alimentare nuove polemiche nel frattempo è il titolo sessista, patata bollente, pubblicato oggi sulla prima pagina del quotidiano Libero, a corredo di un articolo di Vittorio Feltri sulle vicende della sindaca pentastellata di Roma, alla quale arriva la solidarietà di Grillo e Di Maio, ma anche quella del PD e della presidente della Camera Boldrini, che parla di giornalismo spazzatura. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Altro fronte politico, quello del Partito Democratico, che al momento pare concentrato sul congresso. Grandi manovre all'interno, l'analisi di Daniele Biacchesi di oggi è dedicata a questo. Ormai dovremmo esserci, forse sì, anzi no. Nel PD regna ormai la più totale confusione. Solo ieri tutte le componenti sembravano d'accordo nella necessità di andare comunque verso una stagione congressuale per nominare la nuova classe dirigente del partito di maggioranza relativa del paese. Ma prevale il clima da rese dei conti interna più che la costruzione di un nuovo progetto politico. Matteo Renzi, in vista della direzione di lunedì, ci pensa mettendo in conto il rinvio delle elezioni. Perché se il congresso sarà, il leader democratico ha intenzione di farlo subito e già lunedì potrebbe dimettersi e dare il via alla campagna congressuale. Il dibattito nel PD è però condizionato dalla recente decisione della Consulta, che ha bocciato nei fatti di Italicum, le cui motivazioni sono state rese note nella tarda serata di ieri. La minoranza ha condizionato il proprio assenso alla legge elettorale, alla tenuta del congresso del PD e al proseguimento della legislatura fino alla sua scadenza, cioè febbraio 2018. L'ipotesi è che la legge elettorale potrebbe procedere alla Camera con calma, con audizioni di esperti e approfonditi dibattiti, ma la sua definizione slitterebbe. Invece un accordo in extremis tra Renzi e la minoranza, oggi però difficile da prevedere, aprirebbe le porte ad un iter più rapido, verso una legge con premio alla coalizione anziché alla lista, un sistema che piace agli alleati del PD e anche a Forza Italia. Così dunque Daniele Biacchesi, la cronaca con l'Andrangheta e la politica, gli S82 rinvia giudizio. Era stato arrestato l'estate scorsa dopo che la DDA di Reggio Calabria ne aveva provato la collusione con l'Andrangheta Regina. Il senatore di Galla Antonio Cariti è considerato strumento della cupola dell'Andrangheta, che si coordinerebbe con la Camorra, Cosa Nostra e la Sacra Corona Unita e sarebbe vicina ad alcuni ambienti massonici. Adesso arriva la richiesta di rinvio a giudizio per lui e un'ottantina di altre persone dopo che la DDA ha accorpato 5 inchieste. Le accuse sono di associazione mafiosa, voto di scambio, violazione della legge Anselmi, corruzione, estorsione, truffa, falso ideologico e rivelazione di segreti d'ufficio. Caridi era rimasto coinvolto nella stessa operazione che portò in manette anche l'ex sottosegretario regionale Alberto Sarra, l'ex parlamentare Paolo Romeo, l'ex dirigente della Regione Calabria Francesco Chirico e l'avvocato Giorgio De Stefano, ritenuto intraneo all'omonima cosca. Ma tra gli indagati ci sono anche imprenditori, politici locali e anche l'ex parroco del santuario di Polsi, Don Pino Strangio. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. Partono le operazioni di profilassi dopo la morte di un insegnante a Milano per meningite. È stato il meningococco di tipo C a causare la meningite che ha colpito la professoressa di 54 anni morta ieri all'ospedale San Paolo di Milano. E ora all'Istituto Superiore Curie, la scuola dove la donna insegnava, è iniziata la profilassi antibiotica per i 99 colleghi, tra docenti e personale non docente, e i 115 studenti delle sue 6 classi. L'insegnante aveva avuto un elevato numero di contatti perché il 7 febbraio scorso si era svolto il collegio dei docenti nell'aula magna della scuola. E ieri, sempre al Curie, si è tenuto un incontro organizzato per fornire a genitori, studenti e professori tutte le informazioni necessarie sul caso. La Regione Lombardia, nel frattempo, ha ribadito che non c'è alcuna emergenza sanitaria perché il caso rientra nelle statistiche. Nel 2016 in Italia sono stati segnalati 178 casi di meningite da meningococco, la stessa forma aggressiva e contagiosa che ha colpito l'insegnante, con 17 decessi, solo che l'incidenza è in lieve aumento rispetto al triennio 2012-2014. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E braccio di ferro al Parlamento europeo contro l'autorizzazione europea per la coltivazione di piante transgeniche sul territorio comunitario. Il 21 marzo la Commissione Ambiente del Parlamento voterà su circa 20 nuove varietà diverse di mais transgenico appena autorizzate dalla Commissione e su mais già autorizzati come il MON 810 resistente agli insetti. E ieri è iniziata la Corte di Giustizia europea la fase orale di una controversia sulla coltivazione in Italia di questo tipo di mais da parte di alcuni coltivatori friulani. Paolo De Castro, parlamentare europeo e presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, fa il punto al microfono di Anna Marino. L'Europa ha lasciato liberi gli Stati membri di decidere se coltivare o meno e il nostro paese, assieme a molti altri, dovrebbero essere 17 paesi europei che hanno vietato la coltivazione di OGM nel loro territorio, per cui diciamo che da questo punto di vista la legislazione europea è chiara. Qui parliamo ovviamente di OGM di vecchia generazione, di biotecnologie tradizionali, ecco, perché poi ci sono le nuove biotecnologie sulle cosiddette new breeding techniques, cioè le tecnologie che non spostano geni da una pianta all'altra ma che lavorano all'interno del patrimonio genetico, sulle quali pende questo parere della Corte di Giustizia che tutti aspettiamo, speriamo prima dell'estate possa dirimere, diciamo, questo grande quesito. Sono o non sono OGM? Il campionato di calcio e il rugby, questo nell'agenda del fine settimana sportivo. Carlo Genta, ciao. Ciao Simone, certo, questo nell'agenda del fine settimana sportivo, aspettando la settimana che ci porterà e ci riporterà le coppe europee, soprattutto che porterà il Napoli a Madrid contro il Real a Santiago Bernabéu. Napoli che gioca in anticipo già stasera, ovviamente, come ormai consuetudine, 20:45, prove generali contro il Genoa. Domani un solo anticipo che sarà Fiorentina-Udinese alle 20:45 e poi tutte le altre con la coda che sarà Lazio-Milan lunedì alle 20:45. La Juventus va sul campo del Cagliari, Juventus capolista. La Roma gioca con il Crotone, ormai possiamo dirlo virtualmente retrocesso. L'Inter riceve l'Empoli, queste le partite salienti del weekend, un weekend che, come dicevi tu, ci propone anche il 6 nazioni di rugby, seconda giornata, Italia che gioca di nuovo in casa all'Olimpico, questa volta ricevendo l'Irlanda domani alle 15:30, pronostico che non voglio fare pessimista ma sembra chiuso nei confronti degli irlandesi, Simone. Grazie. Dunque Carlo, ti ritroviamo tutti convocati a partire dalle 14, anche evidentemente per parlare di questi temi. A chiudere questa prima parte della trasmissione andiamo a Sanremo con la nostra inviata Marta Cagnola. Ciao Marta, Buongiorno. Ciao Simone, ormai sai che a quest'ora si parte con i numeri. Allora, sì, la terza serata del festival ha raggiunto il 49,78% di share, 10.420.866 telespettatori, il picco per l'ostetrica dei record con 15,6 milioni, il 55,1% di share, invece il picco di share durante l'annuncio del verdetto del torneo di ripescaggio dei giovani. La Puglia con il 58% è la regione che ha visto di più il festival. La media delle serate rispetto alla media delle tre serate dell'anno scorso è sotto solo di uno 0,1%, quindi siamo perfettamente in linea con l'anno scorso. Cosa succederà questa sera? 20 big si esibiranno, i 20 big rimasti, 4 saranno definitivamente eliminati, quindi domani la finale a 16. Questa sera la finale dei giovani, a votare sarà per il 40% il televoto, per il 30% la giuria demoscopica, per il 30% la giuria degli esperti. Questa sera una bella notizia è appena arrivata, una conferma di una notizia che già circolava: ci sarà tra gli ospiti anche la meravigliosa Virginia Raffaele. Fantastico, allora grazie Marta, prepariamoci a farci due risate con Virginia Raffaele e naturalmente vedremo come andrà a finire anche questo Festival di Sanremo. Vi aggiorneremo nel corso del fine settimana anche nei GR e non solo in quelli. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro giro per l'Italia. E beh, oggi non possiamo che iniziare da Bologna, dove è in atto uno scontro tra i collettivi e l'università. Perché? Perché è stato messo l'accesso col badge alla biblioteca. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di questi arresti a Montpellier, di persone che preparavano un attentato a Parigi. Abbiamo parlato della produzione industriale italiana e dell'annuncio dell'INPS sullo stop alla disoccupazione per i collaboratori. Ci siamo occupati della Giunta di Roma, del Consiglio dei Ministri in svolgimento per l'ampliamento dei poteri dei sindaci e di cronaca con la richiesta di rinvio a giudizio per un senatore in un processo per 'Ndrangheta, oltre che di Sanremo e di calcio. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Voglio già dire all'ascoltatore che ce l'ha chiesto, sì, tra un attimo ci arriveremo, ci occuperemo anche del giorno del ricordo. Iniziamo il nostro giro per l'Italia però da Bologna. Ormai la vicenda la conoscete, è su tutti i giornali di oggi, ma le proteste stanno proseguendo. Succede che c'è stata di fatto l'occupazione della biblioteca, di una biblioteca dell'Università di Bologna da parte dei collettivi e degli autonomi. C'è stato lo sgombero ieri da parte della polizia, la protesta avviene contro l'accesso con il badge, insomma i tornelli alla biblioteca. Siamo in linea con Mirko Degli Esposti, che è prorettore vicario dell'Università di Bologna. Buongiorno Degli Esposti. Buongiorno a lei. Allora, ci spiega perché avete installato i tornelli in biblioteca innanzitutto? Perché qua loro protestano per questo, dicono no, la biblioteca deve essere uno spazio aperto, bisogna poter entrare sempre e comunque. Allora, guardi, bisogna anche chiarire il linguaggio. Innanzitutto non sono dei tornelli, sono una porta di vetro che si apre con il badge. Però vorrei precisare questo: noi abbiamo fatto questo all'interno di un'operazione per aprire 4 sale letture in zona universitaria con più di 1000 posti ed estendere l'apertura fino alle 24 sale letture aperte a tutti, senza nessuna restrizione di accessi a studenti, studentesse, cittadini, stranieri, studiosi che hanno un minimo interesse a entrare all'interno di quella che è la biblioteca di discipline umanistiche, che è un patrimonio librario e di personale che ci invidiano in tutta Europa. Nel momento abbiamo chiesto di progettato di aprire, si trattava di aprire con dei servizi moderni, di autoprestito, di scaffale aperto, un'app che dica agli studenti e alle studentesse dove ci sono i posti disponibili. Tutte queste cose richiedono soltanto la verifica di chi entra e di chi esce, anzi di quanti entrano e quanti escono. Non c'è nessun controllo dei documenti, non c'è nessuna registrazione dell'anagrafica, lo facciamo per aprire in quella zona fino a mezzanotte, cosa che non era quindi mai stata fatta. Mi faccia capire, non è tanto una questione di sicurezza, ma una questione pratica e organizzativa, cioè nel momento nel quale tu passi il badge, il sistema riconosce, no, il numero di persone che accede a quella sala, che accede a quel luogo e consente di, per così dire, di distribuire gli accessi nella maniera migliore possibile. Esattamente, questo è uno dei motivi, sono entrambe le condizioni, ma questa è la prima, dare dei servizi moderni, quella che è una biblioteca moderna, una biblioteca dove non ci sono più le distinzioni fra che cosa è studio e che cosa non è. Uno studente che possa entrare, iniziare a studiare, prendere dei libri, uscire, tornare dopo 2 ore e ritrovarli, o accedere su internet, o noleggiare dei tablet. C'è anche la questione, quella è anche una zona di una biblioteca che stava morendo, che veniva usata da, che definire studenti secondo me è sbagliato, da persone che la usavano per tutti altri scopi. Certamente anche per la tranquillità degli studenti e studentesse, e anche per la tranquillità più che per la sicurezza delle persone che ci lavorano, si è pensato bene che quello che poteva essere una verifica dell'identità. Ma avendo altri scopi, degli esposi, mi scusi, altri scopi in che senso? Ma c'erano persone che, c'è stato un periodo, ma questa è una storia nota, che veniva usata per motivi che non erano, quella è una biblioteca, noi chiediamo soltanto che chi entra abbia un minimo di interesse a entrare in una biblioteca, a fare una ricerca, a studiare. Come si ottiene il badge? Il badge ce l'hanno tutti gli studenti e tutte le studentesse, è un badge moderno con il chip e quindi si è pensato che per loro fosse la cosa migliore. Chi non ha il badge dice semplicemente, è successo l'altro giorno, è venuto uno studioso da Firenze, dice che vuole entrare, viene scritto nome e cognome, non viene ritirato nessun documento, chiaramente viene ritirato il documento nel momento in cui magari si accede del materiale, si prendono dei libri in prestito. Ma per entrare niente, chiediamo soltanto che ci sia una manifestazione di interesse ad entrare in un luogo che è una biblioteca. Tutto quello che è stato detto non è assolutamente vero, lo usiamo in tante altre nostre biblioteche, viene usato in tantissime biblioteche del mondo. Mi sembra, comunque, ecco, questo, mi dispiace che si sia creato volontariamente da parte di alcuni tutta questa confusione, proprio nel momento, ripeto, una biblioteca che rimaneva chiusa la sera, proprio nel momento in cui noi la vogliamo aprire come altre biblioteche almeno fino a mezzanotte. La ringrazio, grazie a Mirko degli Esposti, prorettore vicario dell'Università di Bologna, per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata. E abbiamo in linea anche una persona che rappresenta, per così dire, il collettivo universitario autonomo che ha inscenato questa protesta, si chiama Angelo, si è voluto presentare così, non conosciamo il cognome, di solito presentiamo, lo dico per gli ascoltatori perché di solito presentiamo con nome e cognome. Angelo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e tutte. Allora, a me è sembrata molto convincente, mi sono sembrate molto convincenti le dichiarazioni del prorettore, che vi devo dire? In realtà invece le dichiarazioni del prorettore sono imbarazzanti nelle menzogne, nelle falsità che lui quali, ha detto. Cioè, e quali sono queste falsità? Dovrebbe vergognarsi per quello che ha detto. Però mi dica, quali sono queste falsità? Ci arriviamo subito. Delle capriole, delle arrampicate sugli specchi allucinanti. Il prorettore parte da un dato. La biblioteca del 36 stava morendo, evidentemente sono chiusi nei loro uffici e non conoscono la loro università, perché la biblioteca del 36 da anni è quella lì più attraversata di tutta la zona universitaria, quindi stava morendo è la prima falsità che il prorettore dice. Il sistema di badge, ha fatto quel passaggio in cui dice poi facciamo entrare anche chi non è studente dell'alma mater. È una falsità perché fin dal primo giorno che hanno installato i tornelli, in tanti e tanti che erano arrivati lì, che non sono più iscritti all'università e dovevano consultare dei libri, hanno avuto grosse difficoltà ad entrare e sono riusciti ad entrare solo a partire dalle proteste del sabotaggio dei tornelli che è stato messo in campo. Quindi stiamo a parlare di non più studenti che però avevano esigenza. Sì, ma detto ciò, mi scusi però Angelo, io mi perdoni, io non ho, come dire, il vostro stesso concetto di protesta, cioè in uno stato di diritto a casa mia se c'è una cosa che non ti va bene fai un ricorso, non lo so, chiami un avvocato, ce ne sono tra l'altro che fanno gratuitamente queste cose, che sostengono battaglie politiche come le vostre, e cerchi di far togliere i tornelli in quel modo, non vai a estirparli. Mi fa parlare, ci arriviamo. Allora, qui il punto è che subito abbiamo chiesto un incontro con l'università. L'università concede questo tavolo, infatti l'università parla di dialogo, no? Ma per noi il dialogo è che quando ci sono delle istanze mosse dagli studenti, dall'altro lato si prova a fare un tavolo in cui arriviamo a una mediazione. Invece noi abbiamo partecipato a un tavolo con l'università che è stato fuffa. L'università ha detto chiaramente, il rettore Ubertini ha detto chiaramente, qui decido io se vi conviene così, o altrimenti potete andare via. Questo ha detto il rettore. Però, appunto, si poteva andare per tribunali, no? TAR, roba simile. Si poteva anche andare per tribunali, TAR e roba simile, non è che... Ma si poteva andare per tribunali, qui non è, qui nessuno ha messo in scena la violenza, semplicemente se non appunto l'università e la questura, perché ci arrivo, semplicemente si è sabotato un meccanismo di tornelli che non permetteva di entrare e stava appunto svuotando quella facoltà, perché il prefettore vicario dice che quella facoltà stava morendo, ma in realtà stava morendo nelle prime ore dei tornelli, perché l'avevano svuotato, tra chi non riusciva a entrare perché non ha più il badge, se l'era scordato, fra chi non riusciva a consultare più i libri, la stavano facendo morire loro fin dalle prime ore. Abbiamo partecipato a questo tavolo in cui, ci hanno detto è così, se vi conviene altrimenti potete andare via, e poi quindi noi, gli studenti, non il CUA o gli autonomi come hai detto pure prima nella roba, centinaia di studenti, perché poi arrivo pure al punto di ieri, hanno smontato i tornelli, tra l'altro smontati, non distrutti, li hanno riportati indietro al rettore, il giorno dopo come i bambini, i picche come i bambini, hanno chiuso una vera e propria serrata, hanno chiuso l'università. Ieri centinaia di studenti l'hanno riaperta e l'università funzionava, la biblioteca funzionava tranquillamente, no? C'erano centinaia di studenti a studiare, ci sono le fotografie della mattina mentre gli studenti... Stringa un po', per favore, Un'ora dopo l'intervento della Celere, che è intervenuta di corsa, che ha preso tutti alla sprovvista gli centinaia di studenti che studiavano e ha distrutto la biblioteca, perché ieri la polizia ha distrutto la biblioteca. Quindi Ubertini ha mandato la polizia, il rettore ha mandato la polizia a distruggere la biblioteca. Allora, video di poliziotti che lanciano le sedie addosso agli studenti che stanno studiando. Sono sul web questi video e li hanno mandati all'università. E li andremo. Allora, Angelo, lì andremo a vedere anche questi video. Vedo molti ascoltatori pro università e contro la vostra tesi. Beh, vi abbiamo fatto sentire tutte e due le posizioni. A questo punto vi diciamo, fatevi voi un'idea. Oggi è un giorno importante perché è il giorno del ricordo, il giorno nel quale si ricordano le vittime delle foibe, al Monumento Nazionale della Foiba di Basovizza, la solenne cerimonia a Trieste, ricorrenza istituita nel 2004 dal governo italiano appunto in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un messaggio per il giorno del ricordo letto nell'aula di Montecitorio, ha detto che l'Europa della pace, della democrazia, della libertà, del rispetto delle identità culturali è stata la grande risposta agli orrori del Novecento, dei quali le foibe sono state una drammatica espressione. Così la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Mi sento di dire che la legge ha davvero aiutato a recuperare la memoria, ignorata per lunghi anni. Ormai gli atteggiamenti negazionisti o giustificatori non sono più in sintonia con il sentimento della nostra comunità nazionale, che, come dicevo, non solo conosce ma riconosce come propri quei lutti e quelle sofferenze. Dagli eventi storici bisogna sempre saper trarre qualche insegnamento. E quale insegnamento traiamo dalla barbarie delle foibe, dal dramma dell'esodo forzato? Allora accadde qualcosa di particolarmente terribile e ingiustificabile a tante persone innocenti. Ma se ci pensiamo bene, non c'è guerra senza il massacro di civili, non c'è guerra senza efferatezze, senza che migliaia di persone vengano costrette a lasciare le loro case e le loro terre. Non c'è guerra senza che tutto questo accada. Le cosiddette guerre chirurgiche non esistono. Semplicemente non esistono. Adesso non ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati e poi riprendiamo il nostro giro per l'Italia. Riprenderemo da Vicenza, dove è nato uno scontro all'interno della stessa giunta del Partito Democratico. Perché? Perché dalla Caritas è arrivata la richiesta di permesso per motivi umanitari per una famiglia di nomadi, il cui capo famiglia ha accumulato una serie di precedenti penali e arresti dal 2003 al 2014. A questo punto c'è una discreta spaccatura, perché l'assessore ai servizi sociali dice sì, dobbiamo farlo, e il vice sindaco non è d'accordo. Parleremo con lui a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: preparavano un attentato a Parigi, 4 arrestati e tra questi una sedicenne. Tra il materiale sequestrato, lo stesso tipo di esplosivo usato a Bruxelles. Per la produzione industriale, una crescita del 2016 che non si vedeva dall'inizio della crisi. L'INPS intanto annuncia stop alla disoccupazione per i collaboratori. Bologna rioccupata la biblioteca di lettere dopo gli scontri e lo sgombero di ieri. I collettivi vogliono l'eliminazione dell'accesso col badge, come avete sentito. Giunta di Roma, la ricerca del nuovo assessore, mentre si alza la polemica sul Libero per il titolo sulla sindaca di Roma. Solidarietà a Raggi da tutti gli schieramenti. La borsa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto Giorno. Oh, siamo a vette altissime. Abbiamo anche un ascoltatore via WhatsApp che ci accusa di aver volutamente manipolato la qualità audio dell'autonomo di Angelo che avevamo in diretta dall'Università di Bologna, mentre invece abbiamo tenuta buona quella del prorettore e ancora meglio quella della Boldrini sul giorno del ricordo. Ragazzi, io non so veramente che dirvi. Se non avete presente come funzionano i collegamenti telefonici, non veramente non posso dirvi niente. Ci spostiamo a Vicenza nel nostro giro per l'Italia. Vicenza, e siamo in linea con il vice sindaco Jacopo Bulgarini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Spero che il mio segnale si senta forte e chiaro. Il suo segnale si sente forte e chiaro, quindi saremo ulteriormente accusati di complotto. Comunque, va bene così, va bene così. Senta, Bulgarini, la vicenda, devo dire, ci ha colpito abbastanza. È questa. La Caritas ha chiesto un permesso di soggiorno per motivi umanitari per una famiglia di nomadi bosniaci, gli Halilovic. Qual è il punto? È che il capofamiglia di questa famiglia appunto ha una sequenza piuttosto lunga di precedenti penali, di passaggi in carcere dal 2003 al 2014. Mi sembra che la cosa l'abbia fatta innervosire abbastanza. Ricordiamo che a Vicenza c'è una giunta del Partito Democratico, giusto per chiarire, non c'è, immagino, nulla di ideologico in questa cosa qua. Non c'è niente di ideologico, è una posizione che ho assunto, e il motivo della mia, diciamo così, irritazione, che in realtà è un'irritazione di principio, e corroborata penso da una buona sostanza, è duplice. In parte quello che lei dice, e cioè i precedenti che hanno contrassegnato, diciamo così, la permanenza in Italia a Vicenza di questo nucleo familiare, in particolare del capofamiglia, e non solo. Però in realtà, ancora più a monte, un altro tema, e cioè nei confronti di una famiglia che vive in Italia e a Vicenza stabilmente da, credo, una quindicina d'anni, e che è proprietaria di un terreno su cui ha un insediamento non regolare, che sempre ci mette in difficoltà dal punto di vista della legalità. Ecco, un nucleo familiare così, certo originario di un paese estero, la Bosnia, ma in cui oggi non vi sono guerre o persecuzioni che siano note. Diciamo, non è la Siria. Un nucleo familiare come questo ha diritto a chiedere asilo politico? O stiamo facendo, che è poi il mio punto, un cattivo servizio alla difesa invece della causa che io considero sacra, del diritto d'asilo, dell'asilo politico, nel come dire, consentire di usarlo in quello che a me pare più un sotterfugio, una furbizia da parte di soggetti che non ne avrebbero, io credo, titolarità e neanche bisogno. E questo è il punto, non sono arrivati ieri sull'onda di un conflitto. Ma secondo lei, perché la Caritas, insomma, di solito tra istituzioni come la vostra, come un comune, e la Caritas si instaurano dei rapporti di collaborazione, quindi lei avrà una vaga idea del perché la Caritas ha fatto una richiesta di questo genere? La Caritas agisce secondo evidentemente intenzioni che sono certamente non soltanto nobili, ma sono anche condivisibili, ma sono anche condivise in realtà da questa amministrazione. Noi con la Caritas lavoriamo, e questa amministrazione è un'amministrazione che lavora in prima linea sul tema dell'accoglienza. Accogliamo in città di Vicenza qualcosa come 800 profughi al momento, in una città da 113.000 abitanti, quindi faccia le proporzioni, vuol dire siamo senz'altro sopra media e sopra soglia. Partecipiamo a tutti i programmi di integrazione, di accoglienza e di ospitalità, ma penso che in questo caso Caritas abbia sbagliato, perché credo che abbia pensato di utilizzare il diritto d'asilo come, ahimè, una scorciatoia, cioè uno strumento che consentisse di stabilizzare per un periodo di tempo più lungo la situazione di, diciamo così, di stanziarità in Italia, quello, di questo nucleo che non era. Quello che voglio capire, Bugherini, perché poi ci scrive anche qualche ascoltatore su questo tema e qualche ascoltatore vicentino lamentando e raccontando un po' le vicende di questa famiglia sulla quale io non ho dettagli, no? Sì. Ma si configura, da quel che si è riuscito a capire, come una vera e propria famiglia criminale oppure no? Beh, non sta a me dire se sia una famiglia criminale, certo è che anche banalmente, sfogliando le cronache, diciamo così, dei giornali che i nostri concittadini leggono e conoscono, si evince una, diciamo così, consuetudine di questo nucleo familiare con comportamenti illeciti, certamente. Gli arresti si sono susseguiti nel corso degli anni. E hanno riguardato solo il capo, hanno riguardato solo il capofamiglia o anche altri membri? Mi pare che abbiano riguardato anche altri membri, oltre al capofamiglia e alcuni altri membri di questa famiglia. Guardi, non nascondiamoci, è sempre un po' così, è sempre un po', fa parte di quella difficoltà che è forte, che è reale, di relazione e dei tentativi di integrazione nei confronti dei nuclei rom e sinti che abitano la nostra città, il territorio nostro, come ne abitano altri d'Italia. Non è che questo, diciamo così, rappresenti in sé per sé un impedimento al tentativo comunque di produrre delle forme di accoglienza. Io in realtà veramente sostengo un tema un pochino collaterale diverso, cioè il diritto d'asilo oggi è messo sotto attacco, sotto scacco a tutti i livelli, dal presidente nuovo degli Stati Uniti fino ai movimenti di destra che è al vento, io chiamo populista, che soffia in tutta Europa. E lei dice, se lo diamo a tutti, se sfruttiamo questo diritto d'asilo per qualsiasi cosa, diventa un problema e chiaramente... No, possiamo perdere di significato e rendiamo inapplicabile, indifendibile un principio che invece ci è voluto un sacco di tempo per codificare a livello internazionale per coloro che veramente ne hanno bisogno, cioè persone che scappino da guerre, persecuzioni, che abbiano il rischio alla propria integrità fisica, alla vita. Non è il caso di questa famiglia, non è il caso. La ringrazio, grazie a Jacopo Bugherini. Ah no, aspetti, Bugherini, ancora in linea con noi? Sì, sono ancora in linea. Senta una cosa, però su questo si è innestato uno scontro anche con l'assessora, no? Al sociale, mi sembra di aver capito. Ma è una differenza di vedute, lei lo chiama uno scontro, io lo chiamo una differenza di vedute. L'assessore al sociale, nella sua sensibilità, sembra ritenere che effettivamente sia utile utilizzare, diciamo così, questo strumento per rinforzare le protezioni nei confronti di questo nucleo. Io sono di un'altra scuola. Vedremo come si concluderà, diciamo, questa differenza di vedute. Traffico, Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.